Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Ci arrivano morti sulla banchina, arrivano morti, sono 82 e ne arriveranno ancora. Tutto il giorno arriveranno morti, quindi c'è poco da dire. C'è da lavorare, da urlare, non lo so cosa c'è da fare. Con le parole del sindaco Giusi Nicolini, del sindaco di Lampedusa, apriamo il dramma, un nuovo naufragio. Le vittime sono decine, 94 quelle contate al momento, tra loro bambini. Le operazioni di recupero dei corpi non sono ancora finite. Ci servono solo bare, racconta un medico del poliambulatorio. Sono stati annullati tutti gli appuntamenti politici della giornata. Alfano pronto a partire per l'isola. Letta parla di tragedia immane. La Lega polemizza con Boldrini e Chienghe. Il PD propone una giornata di lutto nazionale. Vergogna, è una vergogna, scandisce il Papa. A Bruxelles si dice pronta ad aiutare l'Italia sul fronte immigrazione. Il Consiglio d'Europa chiede maggiore solidarietà verso il nostro paese. E la tragedia di Lampedusa, ma anche la fiducia al governo e la scuola, tra poco ospite di Effetto Giorno, il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Il giorno di Bernabé, tra un'ora il consiglio di amministrazione di Telecom, nel quale dovrebbe rassegnare le dimissioni. Una buona giornata dunque da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, insieme fino alle 14. Naturalmente in primo piano, e sarà una puntata quasi speciale questa, dedicata a quello che è successo a Lampedusa. Una tragedia immane, appunto. Si parla finora di 94 vittime accertate, ma avete sentito le parole del sindaco Giusi Nicolini. Dice: i corpi continuano ad arrivare e continueranno ad arrivare tutto il giorno. Era un barcone sul quale erano caricate almeno 450 persone. Quelle che sono state salvate sono 150, e quindi potete immaginare quali possano essere le dimensioni della tragedia. Nino Amadore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, quali sono le ultime? Ma le ultime un po' le hai già dette. Sarebbe stato anche preso, arrestato uno di questi scafisti, di questi trafficanti di morte, si può dire così. I morti li si conta minuto per minuto. Ci sono ovviamente Lampedusa, attorno a questo ci sono anche le altre emergenze. C'è il centro di accoglienza che è stracolmo, sono già 1000 gli immigrati ospitati. Sono stati organizzati anche dei viaggi speciali per trasferirne alcuni. Alcuni arriveranno stasera a Porto Empedocle con il traghetto. Insomma, la situazione è davvero di emergenza. Nino, una domanda: ci sono anche, iniziano a circolare indiscrezioni poi confermate su come questa tragedia sarebbe avvenuta, no? Sì, questo è il dato più drammatico. All'inizio si pensava a un cortocircuito, ma invece ora comincia a emergere che i migranti avrebbero acceso un fuoco, sarebbero stati loro a provocare poi l'incendio del barcone. E questo sarebbe anche un dato ancora più drammatico, perché evidentemente, insomma, magari lo hanno fatto per attirare l'attenzione, per cercare salvezza, quella salvezza che poi non è arrivata. Grazie Nino, semmai torneremo a sentirci se avrai tempo e possibilità in questa giornata così convulsa per gli aggiornamenti. Noi continueremo ad aggiornarvi come naturale. Allora iniziamo a sentire qualche intervista a questo punto. La prima l'ha realizzata poco fa la nostra Raffaella Calandra, è il racconto di Pietro Bartolo, che è il medico di Lampedusa che ha soccorso i superstiti e contato le tantissime vittime, tra cui bambini. Al momento quello che ci ha detto sono parole di pochi minuti fa ed è un bilancio in continuo aggiornamento, naturalmente, purtroppo, sono 93. I vivi ormai li abbiamo tratti tutti in salvo, sono 151, tre li abbiamo portati nell'isoccorso in Sicilia perché avevano dei problemi respiratori, dopo averli ovviamente tirati fuori dalla morte certa. Adesso le stiamo trasferendo ad Agrigento in ospedale. Poi, per quanto riguarda i cadaveri, in questo momento ne abbiamo recuperati 93 e li stiamo portando in un hangar dell'aeroporto, dove poi procederò a fare l'ispezione cadaverica subito dopo. Intanto stanno cominciando anche le ricerche subacquee, perché ovviamente quelli che sono stati recuperati sono questi 93, ma essendo a detta loro circa 100-500, è ovvio che tutti gli altri saranno giù. 93 è un numero impressionante, un cimitero. Un cimitero, di cui due bambinetti piccoli, una femminuccia di 2 anni, un bambinetto maschietto di 3 anni, e poi minori ovviamente, insomma. Ecco, che cosa vi hanno raccontato? Ma guarda, non hanno raccontato nulla perché erano in uno stato di shock totale, perché questi che si sono salvati, tra l'altro non sapevano dare nessuno, insomma, sono salvati proprio per miracolo, non c'è, quindi tutti imbibiti di gasolio, perché poi si è riversato tutto il gasolio in mare, hanno ingerito anche del gasolio durante, insomma, il naufragio, però insomma non parlano, non dico niente, sono in uno stato di shock. Ma è la nave è naufragata? Qualcuno, che cosa è successo? Ecco, qualcuno ha detto che in pratica la nave a circa mezzo miglio dalla costa ha preso fuoco, c'è stato un incendio nella cabina e quindi loro si sono messi tutti ad un lato, si è capovolta la barca e quindi sono andati tutti a finire al mare ovviamente. È stato fermato uno scafista? No, io questo non lo so, guardi, di questo saranno poi le forze dell'ordine a dire qualcosa, io non me ne occupo di questo purtroppo. Ecco, voi di che cosa avete bisogno in questo momento a Lampedusa? Abbiamo bisogno di bar, di carri funebri, non sicuramente di ambulanze, perché dal punto di vista, diciamo, sanitario, insomma, siamo abbastanza attrezzati e poi per fortuna non c'è stato molti problemi per quelli che sono arrivati vivi. Ma li hanno fatti scendere a mare, li hanno spinti a mare gli scafisti? Cosa hanno raccontato? No, loro hanno raccontato che la barca ha preso fuoco e quindi si sono lanciati tutti in mare e mentre che si sono spostati tutti di un lato, ovviamente 500 persone, la barca si è capovolta, tutto qua. Quindi non sono stati spinti, almeno questo hanno detto qualcuno, che proprio ha preso fuoco la barca. Ed erano troppo distanti per arrivare? Ma non sanno dare nessuno di questi. Hanno tutti la stessa nazionalità? Sì, sono tutti, insomma, loro sono maggior parte eritrei, somali, ecco, dei subsahariani. Veniamo alle reazioni naturalmente dal nostro paese, poi brevemente affronteremo anche le altre, anzi facciamolo subito, le dichiarazioni, innanzitutto la più importante, forse la più rilevante, è quella del Papa che a braccio ha detto vergogna, è una vera vergogna, l'Europa da una parte con la Commissione promette maggiore solidarietà, il Consiglio d'Europa chiede che l'Europa sia maggiormente solidale con noi. Annullati tutti gli appuntamenti politici dopo la giornata molto intensa di ieri, ci sono ministri in partenza verso Lampedusa. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. È così, la tragedia di Lampedusa ha imposto un cambiamento di programma e ha fatto decisamente passare in secondo piano le questioni interne al PDL, annullata la conferenza stampa dei 5 ministri del PDL a Palazzo Chigi, inizialmente prevista per le 12, per spiegare le ragioni del dissenso dopo il voto di fiducia di ieri. Alfano, in qualità di ministro dell'Interno, sta seguendo le operazioni di soccorso dalla centrale dei vigili del fuoco del Viminale ed è in procinto di partire per Lampedusa. Insieme ai vertici del Ministero, il capo della Polizia Pansa, in partenza anche la Presidente della Camera Boldrini, il Vice Premier però ha fatto comunque in tempo a vedere Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, un breve incontro, ma tutto rimane congelato e lo stesso Berlusconi ha scritto in una nota: la tragedia di Lampedusa è troppo grande per poterci dedicare oggi alle vicende interne del nostro partito, rinviata dunque anche la riunione dei gruppi del PDL prevista per le 13 con Berlusconi e annullata anche la manifestazione del PDL in programma domani in concomitanza con la giunta delle elezioni del Senato che voterà la decadenza di Silvio Berlusconi. Ed è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Naturalmente parte del dibattito politico si inizia a concentrare su questi temi. Tra poco parleremo con Khalid Chaouki, che è responsabile Noi Italiani per il Partito Democratico, che propone una giornata di lutto nazionale. Intanto sentiamo invece Vincenzo Miglietta, sempre da Montecitorio, per capire come stanno andando le cose da quelle parti. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. La cronaca che arriva dalle acque di Lampedusa irrompe sulla scena politica ancora alle prese con i postumi della fiducia al governo Letta. Il premier parla allora di immane tragedia. Da anni questi fatti drammatici e nessuna soluzione, commenta il presidente della Camera Boldrini. Va ripensata la politica migratoria, dice il presidente del Senato Grasso. Dolore e sconcerto dal ministro degli esteri Bonino. Cordoglio all'isola siciliana da parte del ministro della difesa Mauro. Massima collaborazione anche da tutti gli uffici che fanno riferimento al ministro della salute Lorenzin, cordoglio dalle forze parlamentari, alle prese tuttavia con la polemica scatenata dalla Lega. La responsabilità morale della strage che sta avvenendo nelle acque di Lampedusa è tutta della coppia Boldrini-Chienge, attacca il vicepresidente del gruppo del Carroccio Gianluca Pini. La loro scuola di pensiero ipocrita, dice ancora Pini, ha portato a risultati drammatici come questi. Parole misere e inaccettabili, replica Anna Finocchiaro, Partito Democratico. Sono convinto che l'Europa possa e debba fare ancora di più in questa materia, le parole di Mario Monti. Una tragedia dalle dimensioni drammatiche, temo senza precedenti, dice il vicepresidente del Senato Gasparri, Popolo della Libertà. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Allora, saluto intanto Natale Forlani, direttore generale immigrazione del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Buongiorno Forlani. Buongiorno. E non è un buongiorno, non è un buongiorno però. No, devo dire, è una tragedia dalla portata, da una portata gigantesca. Tra l'altro, in queste proporzioni, francamente, fuori da ogni possibilità di prevedere una cosa di questo genere. Come avrà già sentito anche nelle dichiarazioni politiche, al di là del rimpallo di responsabilità e di dichiarazioni più o meno avventate, che poco ci interessano in questo momento, si pone il tema di quanto queste tragedie nel mare come queste derivino da una politica di immigrazione sbagliata. No, qual è il suo giudizio? No, siamo fuori quadro proprio. Quando sento ci sono un sacco di persone che parlano senza sapere cosa dicono. Qui siamo di fronte a un cambiamento radicale dello scenario mediterraneo. Ci sono in circolazione nelle varie aree di destabilizzazione che si sono prodotte, sia per motivi politici che per guerre civili o per carestie, circa 4 milioni di persone che possiamo chiamare, diciamo così, esodati. In gran parte vanno nei paesi limitrofi. Quindi il dramma vero di queste tragedie si sta consumando nei paesi poveri, non in quelli ricchi. Una parte di questi tenta l'avventura dell'Europa, cioè quindi percorre il Mediterraneo, e sono quelli che possono pagare, quindi una quota molto minima di queste popolazioni. E si sono sofisticati in maniera inverosimile sia i luoghi di partenza, sono moltiplicati i luoghi di partenza, e si sono sofisticate anche le strategie dei trafficanti di immigrati. E una parte di queste strategie la vediamo, diversificazione di strategie, la vediamo nei luoghi di approdo, cioè si sono moltiplicati il potenziale di luoghi di approdo, e anche le tecniche che usano questi trafficanti, che sono quelle di portarli con grandi navi e poi scaricarli su piccole, non di rado abbandonandole in vista delle coste per poter non rispondere dei fatti di cui sono protagonisti. Un fenomeno questo genere è francamente impossibile da governare da un paese solo. Ci vuole un intervento europeo. Ci vuole un intervento europeo. Bisogna prendere consapevolezza di quello che si sta muovendo. Bisogna avere una politica estera rispetto a questi paesi. Con questi paesi intanto bisogna dargli una mano a questi Forlani, la interrompo, il suo pensiero mi sembra chiaro, ma insomma siamo strettissimi coi tempi. Voglio salutare Khalid Chaouki, responsabile Nuovi Italiani per il Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Che possibilità ci sono che la sua proposta di istituire una giornata di lutto nazionale dopo il dramma di oggi vada in porto? Credo che insomma la risposta sia in aula oggi e di tutti. Insomma, in queste ore tutti riconoscono che insomma è una, comunque purtroppo c'è un tragico primato, insomma si parla di numeri altissimi, non si può fare finta di nulla, insomma è come se fosse l'ennesima tragedia, quindi noi insistiamo a chiedere appunto al governo, ma a chiedere a tutto il popolo italiano di farsi portavoce di, insomma, di una ribellione contro questo susseguirsi di morti, e perché insomma si può pretendere dall'Europa solo se noi siamo innanzitutto consapevoli della portata della nostra responsabilità, e quindi in questo si può ovviamente parlare dell'Europa, ma l'Italia anch'essa ha avuto e ha delle grandi responsabilità. Questa la sua opinione, ciao Kill, ringraziamo anche lei. Noi adesso abbiamo una pausa, ci fermiamo qua per il momento, poi riassumeremo le notizie subito dopo la viabilità e soprattutto parleremo con il ministro Maria Chiara Carrozza, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, con la quale naturalmente parleremo anche della vicenda di oggi, della notizia di oggi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il dramma di Lampedusa, c'è stato un nuovo naufragio, le vittime sono almeno 90, tra loro ci sono dei bambini, le operazioni di recupero dei corpi non sono ancora finite, ci servono solo bare, racconta un medico del poliambulatorio, mentre il sindaco di Lampedusa dice arriveranno cadaveri qua tutto il giorno. Sono stati annullati tutti gli appuntamenti politici della giornata. Angelino Alfano, da vice premier e ministro dell'interno, è pronto a partire per l'isola, e così il presidente della Camera, Laura Boldrini. Letta parla di tragedia immane, la Lega polemizza con la stessa Boldrini e con Kyenge. Il PD propone una giornata di lutto nazionale. Nel frattempo, ha dichiarato in questi minuti il presidente del Senato Pietro Grasso, che dice ci vuole una revisione della nostra legislazione in materia e una più attenta gestione dei flussi migratori. Il Papa dice che è una vergogna. Bruxelles si dice pronta ad aiutare l'Italia e il Consiglio d'Europa chiede maggiore solidarietà verso il nostro paese. Il giorno di Bernabé, tra un'ora consiglio di amministrazione di Telecom nel quale dovrebbe rassegnare le dimissioni. Ed è proprio da qua che ripartiamo, tra poco vi ricordo ancora una volta, incontreremo il ministro Maria Chiara Carrozza per parlare anche della vicenda di Lampedusa. Saluto intanto Olivia Zancanerdi, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno Olivia. Buongiorno. Allora, oggi Bernabé lascia quindi. Sì, oggi durante il CDA, che dovrebbe iniziare alle 14, Bernabé, come uscito in questi giorni, dovrebbe rassegnare le dimissioni proprio per evitare spaccature nel Consiglio di amministrazione nel caso in cui il Presidente avesse presentato una proposta di aumento di capitale. Oggi quindi si capirà come verranno ripartiti poi i poteri, tra virgolette, di Bernabé, che dovrebbero andare da una parte al Vicepresidente Aldo Minucci e dall'altra l'amministratore delegato di Telecom Marco Patuano. Circolata nelle settimane scorse anche un'ipotesi Sarmi come amministratore delegato, come possibile amministratore delegato di Telecom. Sì, il nome di Sarmi è circolato come successore appunto del presidente Franco Bernabé. In realtà, secondo le ultime indiscrezioni, per un'eventuale successione ci vorranno comunque settimane. Ricordiamo infatti che Massimo Sarmi è il numero uno di Poste Italiane, quindi bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi giorni, che cosa decideranno gli azionisti di Telecom. Grazie a Livia Zancaner di Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Noi adesso vogliamo riprendere ancora la tragedia dell'immigrazione a Lampedusa che è avvenuta oggi, proponendovi un'altra intervista che è stata realizzata poco fa da Anna Migliorati, ed è, chiedo a Fabio Cantadori che è in regia, di prepararla, l'intervista a Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, presidente del Consiglio CEI per i migranti. Sentiamo. Stavolta, ma i numeri stanno schizzando in maniera incredibile. 2011 sono stati 2000, l'anno scorso 1700, quest'anno credo che andremo oltre. Gli ultimi giorni sono altamente drammatici. Ma questo io credo che dovrebbe farci aprire gli occhi, dovrebbe farci aprire il cuore, perché questo mare sta diventando veramente un mare di sangue e tutti continuano a stare alla finestra aspettando chissà da chi la soluzione del problema, che non può essere risolto né dalle amministrazioni locali né dalle associazioni di volontariato. Questo, che si capisca, non è più un problema umanitario, è un problema politico, è un problema dell'Italia, è un problema dell'Europa, è un problema politico. Se non cominciamo a capire che si tratta di un problema politico, come tutti i grossi problemi politici, non ne usciamo da questa partita. L'appello primo a chi va? Ma l'appello prima va alla nostra gente, perché cambi idea e cambi testa, perché anche all'interno del nostro mondo ancora non c'è quel coinvolgimento razionale ed emotivo nei confronti di questa realtà che viene vista come un'intrusione, come un'invasione, come qualcosa che ci toglie la pace. Maria Chiara Carrozza, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, buongiorno e benvenuta. Pronto? Ci sente? Sì, pronto, sì, pronto, sì, ministro. Certo. Ministro, buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Allora, le parole che ha sentito erano di Monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, che dice qua la questione è politica. Innanzitutto le chiedo di commentare questo, di commentare questa tragedia di oggi al largo di Lampedusa. Beh, non ci sono parole per commentare. Stavo guardando proprio adesso le notizie, ho sentito che il ministro Alfano e il ministro Chienge si stanno recando sul luogo, ma è una tragedia e segue di pochi giorni un'altra tragedia, è un continuo e il Mediterraneo sta diventando un cimitero, appunto. Mi ricordo che qualche mese prima delle elezioni ci fu un convegno nell'università di cui ero rettore che si intitolava proprio così: il Mediterraneo da mare nostro ma cimitero per i migranti. Ministro, pensa che si debbano rivedere le regole sull'immigrazione, come ha detto poco fa il Presidente del Senato Grasso? Beh, sicuramente è un tema che va affrontato, io non sono un'esperta di queste delle disposizioni di legge in questo settore, però sicuramente è un tema che ha bisogno di essere affrontato da un punto di vista politico. L'Unione Europea è nata sul principio di solidarietà fra gli Stati ed è giusto che si parli di questo e di parli di diritti umani, perché noi li dobbiamo garantire. E questo è un punto, è immagino una questione che sarà posta all'attenzione del governo, magari non da lei, insomma, ma che si porrà dopo questi fatti, insomma, no? Immagino che esaminerete qualcosa da questo punto di vista. Sicuramente noi porremo tutti la questione politica, che va affrontata con un binario tecnico per capire cosa fare, come organizzare gli aiuti, come prevenire questo problema, come affrontarlo a tutto campo. Ci sono anche aspetti che riguardano le mie competenze, che sono quelli della scuola, dei bambini, dei ragazzi. Quando arrivano ragazzi c'è sempre l'aspetto della scuola, perché tutti i bambini hanno diritto di stare in una scuola e di essere formati ed educati in modo, come dire, adeguato, per cui noi abbiamo questo dovere di occuparcene. Allora, Ministro, io verrei anche ad altre questioni con lei, chiaramente. Questa è un'intervista che in realtà avevamo programmato da un po' di tempo, insomma, e poi è arrivato tra capo e collo questo dramma. Innanzitutto si faccia fare naturalmente anche una domanda politica, anche se forse la giornata non si presta particolarmente. Vorrei capire se, mettiamola così, se si aspettava di essere ancora ministro oggi e come ha vissuto la giornata di ieri e se ritiene a questo punto, insomma, che la maggioranza sia serena e possa reggere. Ma sicuramente ieri c'è stata una discontinuità, perché il governo è stato, come si suol dire, stressato, per usare un termine ingegneristico, e la reazione del Parlamento è stata quella di fiducia, c'è stata una spaccatura, poi Berlusconi è tornato indietro e la maggioranza ne ha in qualche modo dato la fiducia con questi numeri così estesi, ma qualcosa è cambiato e non si potrà tornare indietro da questo punto di vista. A me ha fatto piacere che venisse proprio messo in evidenza che c'erano alcuni deputati parlamentari che, insomma, credevano nella opportunità di andare avanti con un governo di servizio per risolvere e affrontare le riforme di cui questo paese ha bisogno, e in questo senso noi dobbiamo ora prenderci la responsabilità di non stare lì, come dire, così a discutere, ma di portare avanti una politica nello spirito proprio del governo di servizio, anche in vista delle sfide che abbiamo, quella di oggi che ci viene ricordata con questi morti che piangiamo in questo momento, di cui ancora non sappiamo il numero preciso, e quindi il problema dell'immigrazione, ma sicuramente ci sono anche altri temi, come quello poi di preparare la presidenza italiana del Consiglio dell'Unione. È una sfida importantissima che capita ogni tanti anni, bisogna aspettare per farla arrivare. Questo è un modo anche per affrontare con la presidenza del Consiglio europeo il tema dei migranti, dando un senso anche a quella priorità sull'euro-mediterraneo che l'Italia aveva posto, e quindi il tema euro-mediterraneo diventa un tema anche sulla stabilità politica dei paesi del Nord Africa, sulla tutela dei diritti umani dei migranti e su una risposta europea che sia coerente. Allora, verrei ai suoi temi, di più stretta competenza, Ministro, partendo da questo decreto ministeriale del quale abbiamo letto un po' oggi sui giornali. L'allarme è un po' questo, è che insomma si sia deciso di favorire gli editori, quelli che pubblicano libri scolastici, come dire, rallentando il processo che potrà portare all'adozione degli ebook in tutte le scuole e costringendo anche le scuole a scegliere in un determinato ambito, no? tra questi libri scolastici. Che cosa risponde? Ma non c'è niente di più falso. Noi nel decreto 104 abbiamo messo un articolo che è dedicato proprio ai libri scolastici, l'articolo 6, in cui diciamo molto chiaramente che non è necessario adottare i nuovi libri, che si possono adottare le edizioni precedenti, e che quindi dando anche una grande opportunità ai collegi dei docenti, quello di autoprodursi libri, di andare a utilizzare e scaricare per esempio su libri consigliati, quei libri in più come possono essere I Promessi Sposi o altro, che possono essere riadottati senza doverne adottare un'edizione nuova. Quindi abbiamo dato una linea di tendenza rispetto, diciamo, anche a progetti in corso di cui anche i giornali parlano. Ci sono progetti che riguardano, sì, 200 scuole che hanno un libro digitale, ma il problema mio è raggiungere 10.000 scuole e 44.000 plessi edifici scolastici dove viene ogni giorno la scuola. Quindi non è un problema di dire chi va avanti vada, e so che ci sono già delle ottime esperienze, ma noi dobbiamo far sì che in tutte queste scuole, più di 10.000, tutti i bambini abbiano accesso agli strumenti per fruire dei libri. Ci vogliono soldi per quello, Ministro. Ci vogliono prima di tutto soldi, secondo chiarire bene che il collegio dei docenti e quindi chi ha responsabilità di questo passaggio dovrà gestirlo nel migliore dei modi, e si dà anche ai genitori, quindi agli studenti nel caso delle secondarie di secondo grado, la possibilità di discutere anche col collegio dei docenti le scelte, perché adesso il collegio dei docenti non è più obbligato ad adottare le nuove edizioni. Quindi insomma è una posizione molto forte quella che noi abbiamo preso nel decreto 104. Sì. Il fatto è, diciamo, di avere dato delle regole significa dare un quadro di riferimento in cui si deve essere chiaro quando c'è un libro autoprodotto, chi lo ha scritto, chi è l'autore, deve essere chiaro se il contenuto è stato validato da un comitato editoriale, che può essere anche di insegnanti che si offrono di mettere il loro nome e cognome e ne propongono con cura una valutazione, perché i testi poi sono quelli su cui i nostri figli dovranno imparare la matematica, l'italiano, la storia. È una responsabilità enorme. Allora, noi adesso abbiamo una pausa, poi le chiedo di restare ancora un attimo con noi perché io ho un altro paio di domande, sempre appunto sui temi che la riguardano. Sono in particolare una sulla famosa edilizia scolastica, per la quale ci sembra che ogni anno vengano stanziati soldi, ogni anno, e questi soldi però poi non si sa mai dove vanno a finire. In effetti i dati ci dimostrano che ne sono stati spesi la metà di quelli stanziati dal 2004 al 2012 e voglio capire come si recupera questo miliardo di euro. La seconda domanda riguarda una sua dichiarazione sulla moralità delle tasse, di alcune tasse sulla quale vorrei un chiarimento. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Erano eritrei e somali, hanno raccontato di essere partiti due giorni fa dal porto libico di Misurata, di essere in 500 sul barcone, che tre pescherecci non li hanno visti ma non li hanno soccorsi. Poi hanno dato fuoco a delle coperte a largo di Lampedusa per farsi notare. Almeno 90 di loro sono morti, l'ennesima tragedia dell'immigrazione vicino alle nostre coste. Ci servono solo bare, racconta un medico del poliambulatorio. Sono stati annullati tutti gli appuntamenti politici della giornata, Alfano è pronto a partire per l'isola, il governo fa sapere che riferirà quanto prima, Letta parla di tragedia immane, all'interno del PD si propone una giornata di lutto nazionale. Il Papa parla di vergogna, Bruxelles si dice pronta ad aiutare l'Italia, il Consiglio d'Europa chiede maggiore solidarietà verso il nostro paese. Il giorno di Bernabé, tra un quarto d'ora, 20 minuti, il consiglio di amministrazione di Telecom, nel quale dovrebbe rassegnare le dimissioni. E noi adesso vediamo innanzitutto, Fabio Cantadori, riusciamo a far sentire la diretta? Parliamo corridoi umanitari, canali umanitari, bisogna anche cercare di dare delle risposte a molte di queste organizzazioni, cioè di poter contrastare molte di queste organizzazioni criminali che in questo momento stanno facendo la tratta delle persone. E anche questo è uno dei. Ed è la diretta del ministro Kyenge che sta parlando naturalmente di quello che è avvenuto a Lampedusa. Noi siamo però col ministro Maria Chiara Carrozza, con la quale avevo lasciato in sospeso un paio di domande. Eccoci qua. Le chiedo di essere molto breve perché i nostri tempi sono stretti. La prima, edilizia scolastica. Dal 2004 al 2012 stanziati 2 miliardi e 300 milioni di euro, ne sono stati spesi 1,2 miliardo e 200 milioni. È possibile che abbiamo questa indegna capacità di spesa, ministro, e come si può fare a recuperare quei soldi, insomma, a spenderli efficacemente? Sin dall'inizio del mio mandato avevo detto che questo è un problema da affrontare, infatti nei nuovi provvedimenti che abbiamo messo in cantiere con il decreto del fare sull'edilizia scolastica abbiamo adottato un altro metodo grazie a un'intesa col ministro Lupi e poi con le regioni in cui chi è sul territorio, quindi gli enti locali, sono direttamente commissari di governo per mettere in campo il cantiere e poi spendere i soldi. Sul modello, diciamo, Emilia Romagna, dove ha funzionato dopo la ricostruzione, dopo il terremoto. Quindi e per quello che riguarda il passato certamente dobbiamo affrontare il tema, era già una cosa di cui avevo parlato anche col ministro Lupi per capire come fare, perché spesso la politica italiana fa così, prende decisioni, poi metterle in atto significa arrivare fino al cantiere, servono molti anni, troppi. Decreto scuola invece, finanziato in realtà con nuove tasse, no, perché nella sostanza è questo, accise sugli alcolici e poi il bollo, cioè qualche bollo che ha aumentato, insomma, per quanto riguarda appunto il decreto scuola. Vorrei chiederle questo, in merito alle accise sugli alcolici mi è sembrato che lei avesse dichiarato, ecco qua, ho ritrovato il foglio, è rincarato da 168 a 200 euro il prelievo in misura fissa e tornano le imposte catastali ipotecarie da 50 euro una tanto, questo per finanziare il decreto scuola. A proposito delle accise sugli alcolici, lei mi sembra che avesse dichiarato quel giorno che sono tasse morali, cioè eticamente corrette? No, io non è che voglia portare avanti l'idea delle tasse etiche. Ho detto, forse in quel caso lì spiegavo che era una tassa, in quel caso lì, per quella copertura sugli alcolici e quindi andava, diciamo, in un senso etico, però certamente non è il modo migliore per coprire i fondi sulla scuola e dovremmo lavorare perché in futuro la scuola sia coperta costantemente e non con l'aggiunta di nuove tasse. Mm. Ultimissima domanda, perché c'è una dichiarazione della sua collega, il ministro Chieng, forse l'avrà letto oggi, un deputato leghista, Gianluca Pini, ha detto: responsabilità morale di Boldrini e Chieng per la tragedia di oggi. Dice Chieng, è un punto di non ritorno rispetto a questa forza politica. Lei come giudica le dichiarazioni di Pini? Ma io, per me sono inaccettabili e irriferibili e neanche insomma le prendo in considerazione, ecco, non penso che si possa attribuire a un ministro e anche fare questi discorsi con i luoghi comuni, questa non è politica, è un modo per far credere alla gente che le responsabilità si possano così attribuire all'una all'altra persona, soprattutto il giorno in cui c'è una tragedia di questa portata. Dire che è colpa del fatto che abbiamo un ministro dell'integrazione, meno male che ce l'abbiamo un ministro, che almeno diventiamo un paese civile, che diciamo che questo è un problema serio, quindi io penso che chi dice queste cose prende in giro il popolo italiano. Grazie Maria Chiara Carrozza, ministro dell'istruzione, per essere stata con noi, buona giornata. Noi ci fermiamo, una pausa per la viabilità e poi ritorniamo con America 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Almeno 93 vittime a Lampedusa, un nuovo naufragio di migranti hanno dato fuoco a delle coperte sul barcone nel quale si trovavano in 500 per richiamare l'attenzione, e la barca è andata a fuoco e affondata, 150 persone sono state salvate, 90 sono le vittime, almeno 4 i bambini. Venga a contare i morti con me, lo ha scritto il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, proprio un attimo fa in un telegramma inviato al premier Enrico Letta. Il sindaco ha anche proclamato il lutto cittadino Alfano e Boldrini verso Lampedusa. Il Papa dice è una vergogna, Bruxelles promette maggiore solidarietà. Giorno di Bernabé, tra un'ora il consiglio di amministrazione di Telecom nel quale dovrebbe, anzi no scusate, tra poco il consiglio di amministrazione di Telecom nel quale dovrebbe rassegnare le dimissioni. È venuto il momento del nostro collegamento con gli Stati Uniti. Mario Platero, buongiorno. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, buongiorno Simone, grazie per la linea da New York, Mario Platero. We had a nice conversation, polite conversation, but they will not negotiate. 90 minuti di discussione per un nulla. Di fatto John Boehner che ci dà una notizia ieri sera, anzi ieri notte, a tarda notte, ora italiana, dice che l'incontro, il vertice convocato da Barack Obama con la leadership del Congresso, con la leadership democratica e quella repubblicana, si è chiuso con un nulla. Di fatto il countdown, ormai non tanto verso il tentativo di riaprire i battenti del governo americano, ma il countdown per la scadenza del 17 di ottobre, quando scadranno i termini per il tetto sul debito americano, e in mancanza di un accordo per un rinnovo, beh, il governo americano andrà in fallimento, in default. All we're asking for here is a discussion and fairness for the American people under Obamacare. Ma veniamo all'oggetto del contendere. Boehner dice: quel che chiediamo è una discussione, correttezza nei confronti degli americani sull'Obamacare. Spero che il presidente e i miei colleghi democratici in Senato ascoltino gli americani e si siedano al tavolo per avere una discussione seria per risolvere le nostre differenze. In realtà qui stiamo parlando di muro contro muro. Da una parte i repubblicani insistono: discutiamo prima della riduzione della riforma dell'Obamacare e poi magari riapriamo i battenti del governo americano. I democratici ovviamente la pensano in modo diverso. Sentiamo Harry Reid, il capo della maggioranza al Senato. We have the debt ceiling staring us in the face and he wants to talk about a short-term CR. I thought that they were concerned about the long-term fiscal affairs of this country. And we said, we are too. Let's talk about it. My friend John Boehner, I repeat, cannot take yes for an answer. Abbiamo una scadenza sul tetto, sul debito, che ci guarda direttamente in faccia. e quel che vogliono discutere i repubblicani è un prolungamento della spesa a breve termine, giusto per riaprire i battenti per qualche giorno, mentre si cerca di negoziare qualcosa su cui non troveremo un accordo. Io pensavo che fossero davvero preoccupati dagli affari del nostro paese, ma il mio amico John Boehner non risponde neanche quando gli diciamo di sì, quando gli diciamo che accettiamo alcune delle sue condizioni. In questa situazione l'America, devo dire, sta dimostrando che la politica è uguale un po' dappertutto. Che succede? Che qui le posizioni si intrecciano, non si sa bene dove comincia l'ultimatum dell'uno e la possibilità di accettare un negoziato da parte dell'altro. L'idea che mi sono fatto è la seguente: il presidente Barack Obama vuole cercare di tenere insieme il negoziato sia sul bilancio che quello per la scadenza del debito, non vuole separare le due cose, non vuole trovarsi a risolvere la chiusura del governo americano per poi ricominciare da capo, e dunque le due cose debbono restare assolutamente insieme. I repubblicani invece cercano di massimizzare le differenze, cercano di tenere le due cose separate. Il risultato è che tutti tengono le carte molto molto strette al petto, non si capisce quale può essere un'ipotesi di soluzione. L'idea che mi sono fatto, di nuovo, è che si cercherà di trovare un compromesso per poter negoziare insieme mentre il governo resta chiuso, quindi senza che il governo riapra, come per esempio chiedono i democratici, di negoziare insieme qualche cosa che possa funzionare. In fondo ai democratici, al presidente, importa poco tenere chiuso il governo altri due giorni se poi riescono a raggiungere il grande compromesso, anche perché la scadenza davanti a noi, ripeto, quella del 17 di ottobre, è una scadenza molto pericolosa. Sentiamo Nancy Pelosi. It's really dangerous. I mean, closing the government is bad. The combination of that and not lifting the debt ceiling is beyond cataclysmic. So Nancy Pelosi, capo della minoranza democratica alla Camera: per il bene di tutti dobbiamo togliere dal tavolo la discussione sul tetto, sul debito. Gli Stati Uniti onoreranno sempre i loro debiti, non tradiranno la fiducia dei loro creditori, nessuno dovrebbe essere tenuto in ostaggio per fini politici particolari, perché è davvero pericoloso. Chiudere il governo è già terribile, ma la combinazione delle due cose è beyond cataclysm, al di là del cataclisma. Immaginate infatti cosa succederebbe se il governo americano andasse in fallimento, il crollo dei mercati mondiali. E Obama? The President of the United States was very, very strong, strong, strong. This has never happened before. They can make all the historical analysis that they want. It just has never happened before where a political party would be willing to take the country to the brink of financial disaster and say we're not going to allow us to pay our bills. Secondo Harry Reid, il presidente è forte, forte, forte. Non cederà davanti a questo ricatto dei repubblicani, ma il presidente ha avuto qualcosa da dire. Sentiamolo in un'intervista alla CNBC. I think this time's different. I think they should be concerned. Obama dice: questa volta è diverso, i mercati hanno ragione di preoccuparsi, qui c'è una fazione che è disposta a far fallire gli Stati Uniti, se oggi li accontentiamo tra due mesi saremo punto a capo. E io so che gli americani e il mondo degli affari sono stanchi di questo balletto politico che ci obbliga ad andare da una crisi all'altra, adesso basta. Insomma, la situazione è tesa, vedremo Wall Street come aprirà fra un'oretta, un'oretta e mezzo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di shutdown del governo, continua. Dunque vi propongo dei Beach Boys, Shut Down. Here we go. Superstar driver whining out in low, but my fuel injector steering's really starting to go. To get the traction, I'm riding the clutch. My pressure plate's burning and the sheet's too much. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Grazie dunque anche a Mario Platero per questi aggiornamenti. I ringraziamenti finali con Fabio Cantadori in regia, Laura Fagin in redazione. Io vi ricordo i contatti, mi trovate su Twitter se volete, Simone Spezia, oppure abbiamo la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook della trasmissione www.facebook.com/effettogiorno. Ogni giorno cerchiamo di metterci qualcosa e vi invitiamo naturalmente a commentare. Non sempre, come avete sentito, abbiamo il tempo, soprattutto in giornate convulse come queste, di leggere quello che ci scrivete, ma insomma il dibattito è giusto che stia tanto dentro quanto fuori dalla radio. Chiudiamo qua Effetto Giorno. Effetto Giorno naturalmente torna domani alle 13. Adesso ci fermiamo per una pausa, c'è la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo, un breve appuntamento con il giornale radio e poi le notizie di Europa 24. A tra un attimo.